America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. What are you doing? We're bringing the Tonight Show back to New York, right? Give me this. Get out. Go get changed before somebody sees you. Quit walking like that. I can't help it. The Tonight Show starring Jimmy Fallon premieres February 17th on NBC. Beh, è un promo quello che vi ho fatto ascoltare per Jimmy Fallon, che andrà a condurre il Tonight Show, uno dei più importanti, storici programmi televisivi, talk show americani, e comincia alle 11:30 ed è uno dei più seguiti in assoluto, con radici leggendarie, quando Johnny Carson ha condotto per 20 anni, poi Jay Leno che ha condotto per altri 20 anni, e adesso è arrivato il momento di un cambio della guardia. Vi racconto questa storia perché è una storia molto americana. Questi personaggi televisivi sono intraducibili, però qualche cosa sta capitando, perché questo cambio della guardia, che avverrà formalmente il 17 febbraio, mentre invece Jay Leno smetterà il 6 febbraio, perché ci saranno poi le Olimpiadi di Sochi. Beh, vi dicevo, un passaggio importante. Perché? Beh, intanto un passaggio generazionale, ma anche perché sale la tensione della concorrenza con David Letterman. David Letterman Show, molti di voi conosceranno David Letterman, è diventato un personaggio televisivo anche in Italia, le sue freddure sono straordinarie. Ebbene, David Letterman resta, e però a questo punto si dovrà confrontare con un giovane di grande talento, un imitatore che viene da una scuola straordinaria, perché Jimmy Fallon, che adesso sta conducendo il Late Night Show, cioè il programma notturno che comincia a 12:30, quindi ancora più tardi, si è già fatto le ossa per qualche anno, ma vi dicevo, viene da una scuola straordinaria, quella di Saturday Night Live, che è uno dei programmi televisivi il sabato sera di maggior successo coi giovani, soprattutto in America, un programma che ha creato una serie di star. I got a big ass. Your mama got a big ass. You do have a big ass. Don't tell me nothing. Your ass is big in our family. Eddie Murphy è una delle star che è stata lanciata dal Saturday Night Live. È un programma che viene trasmesso dallo studio 8H, Rockefeller Center di New York, dove c'è la sede appunto della NBC. Eddie Murphy, vi dicevo, è soltanto una delle star di questo programma, che è stato ideato da Lorne Michaels, che è uno dei grandi mostri sacri della creatività televisiva americana. Bene, e quali sono le altre star che sono state lanciate da questo programma? Bill Murray, un altro grande attore, anche lui è nato nel contesto di Saturday Night Live, ma poi ci sono stati Dan Aykroyd, Ben Stiller, Chris Rock, Adam Sandler, insomma una gran quantità, fino al grande leggendario, no, ma anzi sentiamo questo passaggio per vedere se capite di chi sto parlando. John Belushi, lo avrete riconosciuto, i più moderni, contemporanei, Tina Fey, che ha condotto proprio l'altro giorno i Golden Globe. Ma torniamo a Fallon. Intanto è diventato molto famoso per le sue imitazioni di vari personaggi, tra cui Jerry Seinfeld, Pat O'Brien, Chris Rock, Hilary Swank, altra grandissima attrice. E devo dire che in questo suo programma notturno ha fatto anche delle cose niente male. Nel 2001-2005 ha condotto gli MTV Movie Awards, nel 2002 ha pubblicato l'album di monologhi comici The Bathroom Wall, è stato nominato un Grammy Award addirittura nel 2003 perché canta e suona la chitarra, e pensate che People l'ha nominato come una delle 50 persone più belle, e l'attore ha detto: beh, questo mi imbarazza un pochino. Vanity Fair, uno dei più importanti magazine americani, gli ha dedicato la copertina dell'ultimo numero. Ecco, che cosa è successo? Che a un certo punto nel 2009 Fallon prende il posto di Conan O'Brien, che doveva sostituire Jay Leno appunto al Tonight Show, però Conan O'Brien non ha funzionato, è rientrato Jay Leno, O'Brien se n'è andato, e a questo punto il passaggio della staffetta è arrivato con Fallon, che già nel Late Night Show, devo dire, ha fatto delle cose divertentissime. Cominciamo da questa. In the day we sweated out on the street, stuck in traffic on the GWB. Born to Run, Bruce Springsteen, ma non è Bruce Springsteen che comincia a cantare, è Jimmy Fallon. Arriva lui con la chitarra, con la bandana, imita perfettamente Bruce Springsteen e poi dall'oscurità, dal fondo del palcoscenico, spunta proprio Bruce Springsteen, vestito in modo identico, sembrano due gemelli, e si mettono a cantare e suonare insieme una parodia di Born to Run dedicata al governatore del New Jersey Chris Christie, che, come sapete, ve l'ho raccontato in altre puntate, soffre di un momento politico difficilissimo perché la sua squadra ha deciso di chiudere due corsie del ponte George Washington Bridge, uno dei ponti più trafficati tra New York e il New Jersey, per vendicarsi del sindaco di Fort Lee. Attenzione, vendicarsi non lui, perché questo non è stato provato, ma i suoi collaboratori volevano vendicarsi del fatto che questo sindaco, oltretutto un democratico, non aveva appoggiato il repubblicano Christie nella campagna elettorale. Ecco un altro audio di Jimmy Fallon. That's right. I want to slow jam the news, and I'm not the only one. I'm President Barack Obama. Un classico, perché l'ospite di Jimmy Fallon, pensate, in questo programma molto tardi, notte, mezzanotte e mezzo, è Barack Obama, il presidente americano, che si presta a questa parodia che si chiama Slow Jam the News. Obama fa delle dichiarazioni su tassi di interesse, sui prestiti agli studenti, insomma quella che è la sua agenda politica, e subito dopo si vede in primo piano davanti a lui Jimmy Fallon, che fa un commento, e fa un commento così, imitando un po' uno slang degli afroamericani, e la musica di sottofondo è continua, e dopodiché interviene il cantante della sua band che chiude questa gag, devo dire straordinaria. Tra l'altro vanno viste, per cui metteremo sul nostro sito radio24.it America 24 il link dove potrete vedere queste immagini. E dunque chiudo con questa gag di Jimmy Fallon, il presidente americano e il suo cantante. The reason it's so important to keep down costs is so we keep college affordable. And the president knows his stuff, y'all. That's why they call him the POTUS, which means person on top. What is it? Jimmy, POTUS stands for President of the United States. He's the POTUS with the most stuff. The rates down on college loans. Stop the loan you say may be your own. Yeah, let's get it together and make our lives better. Cause a college degree is more than a few letters. If college goes right, we'll have financial blues. And that is how we slow jam the news. Oh yeah. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di Jimmy Fallon, del Tonight Show, di questo passaggio della guardia. Jimmy Fallon, tra l'altro, che ha 39 anni, quindi giovanissimo. Pensate che ha un audience nel suo programma di 1,9 milioni di persone, quasi 2 milioni di persone che stanno su fino a mezzanotte e mezzo, l'una alle 2 del mattino, per vederlo in azione. E dunque a lui, a questo personaggio che prende la staffetta da un programma vecchio di 60 anni per portarla alle nuove generazioni, dedichiamo la canzone del giorno in questa sua interpretazione, di cui avete sentito un accenno nella trasmissione poco fa. Bruce Springsteen e Jimmy Fallon nella parodia di Born to Run.